Che cavolo aspettiamo a mangiare? Diceva Spencer Tracy, protagonista di Indovina chi viene a cena, un film degli anni 60. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto. Iniziamo anche oggi con una spezzone di questo indimenticabile film che portava avanti in America negli anni 60 i temi del pregiudizio razziale, dell'integrazione fra le culture, delle coppie miste. Temi che restano purtroppo attuali, ma noi pensiamo che si possano superare, soprattutto a tavola. Come superiamo a volte certe avversioni, come quella per dei gusti, cumino, aglio, zenzero, quant'altro, che non conoscevamo e che invece una volta conosciuti magari ci piacciono. Insomma, a tavola come nella società e nella vita i gusti cambiano. Partiamo quindi parlando con voi di ricette e cucina per raccontare i nuovi italiani nati all'estero o da decenni in Italia, magari nati in Italia da genitori stranieri. Oggi indovinate chi viene a cena a Radio 24. Benvenuto a Marco Wong. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, Marco Wong è un imprenditore cinese, presidente di Asso Cina, è nato a Bologna anche lui negli anni 60, quindi insomma qualche anno prima del film a cui facevamo riferimento. Come si dice buon appetito in Cina? Non c'è un modo per augurare equivalente a buon appetito, c'è invece un modo di salutare che normalmente quando si incontra qualcuno gli si chiede se ha già mangiato, no? Che è un modo per assicurarsi che stia bene. Lingua che lei non conosce per averla imparata dai genitori, ma che ha studiato, no? È così? Sì, quando ero piccolo, negli anni 60, insomma, la mia situazione era ancora abbastanza inusuale e quindi i miei genitori avevano consigliato di parlare solo italiano in casa e quindi quel poco di cinese che già sapevo insomma, l'ho persi strada facendo e solamente poi con degli studi addizionali poi ho imparato il cinese. Qual è il piatto che ci cucina stasera? Beh, io più che un piatto specifico volevo proporre un sistema di cucinare diverso da quello che normalmente si usa in Italia, e cioè la cucina al vapore che in Cina si fa con cestelli di bambù oppure di metallo. Ed è un modo di cucinare che mantiene molto di più i sapori e che si può usare per tantissimi piatti e per esempio insomma, si può usare per fare il pane al vapore e che quindi ha degli ingredienti che sono abbastanza simili al pane italiano, quindi farina e lievito, però con questo modo di cottura si mantiene molto più leggero e soprattutto non c'è quella crosta tipica del pane cotto al forno. Quindi è un pane soffice? Sì, un pane che rimane molto soffice e morbido. Di solito si abbina alla cucina cinese un gusto un po' ricco, anche forse un po' pesante. Invece, in realtà, lei mi spiegava, ci sono dei cibi molto leggeri, ad esempio appunto il pane al vapore. Sì, esattamente, perché spesso si ha una visione un po' limitata della cucina cinese perché insomma, si conosce solo attraverso i ristoranti cinesi in Italia oppure per dei viaggi, però dobbiamo ricordare che la Cina è un paese molto grande con un'estensione geografica grosso modo come quella europea, quindi il nord dal sud si ha degli ingredienti molto diversi dovuti ai climi diversi. Se noi pensiamo che una parte della Cina è nella fascia tropicale, insomma dal nord al sud ci sono migliaia di chilometri di distanza e quindi è chiaro che gli ingredienti possono variare moltissimo. Allora, per esempio, nel nord si fa molto più uso di farinace e quindi per esempio si mangia molto di più anche il pane al vapore di cui abbiamo parlato prima, mentre al sud per esempio si fa molto più uso di del riso che insomma molto che normalmente si associa alla cucina cinese. Non si può parlare di una cucina cinese, ma di tante cucine cinesi. La cucina cinese. La cucina cinese è legata alla filosofia e alla medicina. Distingue gli alimenti yin, femminili, umidi e teneri, dunque rinfrescanti come i legumi e i frutti, e gli alimenti yang, maschili, fritti, speziati o a base di carne. Un pasto deve dunque non soltanto armonizzare i gusti, ma trovare un equilibrio tra il freddo e il caldo. Un'altra caratteristica della cucina tradizionale cinese è l'assenza di prodotti lattieri a causa di un'intolleranza al lattosio che esiste in numerosi paesi asiatici. La successione cronologica dei piatti che si conosce in Italia e negli altri paesi occidentali nella cucina cinese è sostituita da una ricerca di equilibrio a partire dai 5 sapori di base: dolce, salato, acido, amaro, piccante. Non si può parlare di una cucina cinese, ma di tradizioni culinarie molto diverse. Il principale farinaceo di accompagnamento nella Cina del Sud è il riso cotto al vapore, senza condimento, mentre nella Cina del Nord sono le paste, le crespelle o i pani al vapore a base di farina di grano. Si possono distinguere 4 cucine regionali. La cucina settentrionale o pechinese, che si caratterizza per il largo uso di pasta, ravioli e tagliatelle. È una cucina non grassa che fa largo uso di manzo e agnello. La cucina del nord è famosa anche per l'anatra laccata, piatto molto complesso e raffinato. I piatti meridionali o cantonesi sono quelli che più si avvicinano a quelli proposti dai ristoranti cinesi nostrani. I piatti tipici sono il pollo al limone e il riso alla cantonese. Questa cucina fa largo uso di ortaggi e di riso e della cottura in olio bollente in modo da rendere croccanti i cibi. La cucina cinese orientale o di Shanghai è caratterizzata dalla grande presenza dell'acqua con frutti di mare e crostacei, ma anche carpe ed altre varietà di pesce. Qui la cottura è più lenta rispetto al resto del paese, con largo uso dei bolliti, degli stufati e dei brasati. La cucina occidentale o del Sichuan è quella che più si avvicina alla cultura indiana e del Centro Asia in genere. I piatti sono più speziati e piccanti, con largo uso del peperoncino e del pepe. Uno dei piatti caratteristici è il Mapo Tofu, del tofu piccante. Il tè è la bevanda più bevuta. È consumato per le sue virtù digestive e decongestionanti. La birra e l'alcol di riso sono piuttosto bevande per le feste, riservate ai grandi eventi. Durante un pasto ordinario a casa propria, in generale non è proposta alcuna bevanda. Ci si disseta con una zuppa. Come in tutte le culture, alle feste e alle occasioni speciali sono associati cibi particolari, come la torta di Capodanno, Niangao, a base di farina di riso glutinoso, profumato ai fagioli rossi o al longan. È cotta al vapore, poi tagliata a fette che vengono fritte. In occasione della festa dei defunti, il King Ming, si fanno dei picnic e ci si porta al cimitero il pasticcio imperiale e l'involtino primavera, Chun Yuan. Piccole crespelle a base di farina di grano o di riso contenenti verdure o carne tagliata a lamelle. Gli zongzi, foglie di bambù farcite, riso glutinoso, maiale, arachidi, tuorlo di uovo d'anatra salato, accompagnano la festa delle barche drago. Le torte di luna, Yue Bing, si consumano all'epoca della festa di mezzo autunno, che ha luogo più spesso a settembre in occasione della luna piena. La pasta di lunga vita, Chang Shou Mian, molto sottile e molto lunga, è consumata da coloro che festeggiano il proprio compleanno per assicurarsi la longevità. È dunque importante non romperla durante la cottura. Curiosamente, in Cina, per complimentarsi per un piatto, si dice che aiuta a far passare il riso. Lei è cresciuto con i genitori appunto cinesi che, come dicevamo, l'hanno messa al riparo da difficoltà di integrazione insegnandole l'italiano e facendo sì che in casa parlasse anche italiano. Ma in casa si cucinava cinese o italiano? Si cucinava, i miei genitori, mia madre cucinava per lo più cinese, però siccome ero molto occupato col lavoro, avevo una persona che stava in famiglia e che era emiliana e cucinava cucina emiliana. E la cosa bella era che appunto venendo a contatto con il modo di cucinare di mia madre, faceva spesso delle quello che si definirebbe oggi un po' di cucina fusion, per cui prendeva dei modi di cucinare cinesi e li mescolava a quelli italiani, per cui forse è un po' anche da lì che sono stato abituato a, insomma, a sperimentare e apprezzare un po' tutti i gusti. Quindi una cucina cino-emiliana. Esatto. Perché in quel periodo stavate a Bologna. No, stavamo a Firenze, però appunto avevamo questa persona così che veniva a lavorare in casa nostra, che era anche lei emiliana. Quindi tagliatelle e tortellini. Lasagne, tortellini, queste cose qua. E per esempio appunto una delle cose fusion che ci preparava era magari i tortellini con la forma dei tortellini bolognesi, però con il ripieno cinese e in qualche caso appunto con i modi di cottura cinese. Invece sua mamma che cosa cucinava per lo più? Qual è il piatto che della sua infanzia che ricorda, l'odore, il profumo della cucina che le ricorda di più la sua infanzia? Beh, il mio piatto preferito era una chiamato Zhuanbing, che è un tipo di involtino, non come l'involtino primavera che si trova nei ristoranti cinesi, però un altro tipo fatto con l'impasto fatto di uova simile alla crepe e poi con il ripieno fatto di pietanze varie e con carne, verdure e così via. I hear her heart beating loud as thunder, soul the stars crushing. I'm a mess. My little China girl, wake up in the morning with my little China girl. Hearts beating. Lei va mai nei ristoranti cinesi in Italia? Non tantissimo, non tantissimo nei ristoranti che conosciuti così dalla maggior parte degli italiani, però in qualche ristorante cinese che serve cucina regionale, no? Per cui per esempio cucina della provincia da cui vengo anch'io, e in quei casi lì si trovano appunto quei sapori che è difficile ritrovare, di cui magari si ha un po' di nostalgia. Ecco, quindi mi sta dicendo quello che un po' tutti noi sospettiamo, che in Italia esistono dei ristoranti cinesi per italiani e esistono dei ristoranti cinesi per cinesi in Italia, è così? Sì, un po' è così, sì. E quindi come si fa ad avere una mappa dei ristoranti dove andare se non si è cinesi? Se uno non sa proprio come orientarsi, prova a vedere se all'interno ci sono tanti avventori cinesi, allora sarà uno di quei ristoranti, se no vuol dire che è un ristorante così, che è un po' più standardizzato. Cosa le dà fastidio di quando si parla del cibo cinese in Italia e dei cinesi in Italia? Quando si parla del cibo, purtroppo quello che è successo è che spesso si associa la cucina cinese alla fascia di mercato in cui si sono poi alla fine un po' collocati, cioè nella cucina un po' economica e senza troppe pretese, e questo non rende giustizia a un tipo di cucina invece che può essere molto sofisticata e molto ricca, e quello è un po' un peccato. Adesso la devo interrompere perché abbiamo i consigli per chi è in viaggio, ma torniamo a parlare dei pregiudizi invece verso le persone cinesi subito dopo. Strade in diretta. Lungo il tratto genovese della A7 ci sono code per un incidente tra il bivio per la 12 e l'innesto per la 10 sulla carreggiata in entrata a Genova. Altre code per incidente sul tratto appenninico dell'autostrada del Sole, 2 chilometri di coda tra Sasso Marconi e Rioveggio in direzione Firenze. La statale 106 Ionica in provincia di Taranto è chiusa da alcune ore per un incidente che coinvolge mezzi pesanti tra Marina di Ginosa e Metaponto in direzione Reggio Calabria. Traffico scorrevole sul resto dei percorsi, prudenza però per le piogge al nord e in Toscana, nevica sulle Alpi e sull'Appennino tosco-emiliano a quote collinari lungo la 15 della Cisa. Ci sono poi forti raffiche di vento sulle coste liguri in Piemonte, Valle d'Aosta e su tutto il centro-sud. Per il momento è tutto, Strada in diretta torna tra mezz'ora. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. That's the glory of love. Come back home, I'll wear your colors, my dear. Till you're standing right here next to the one who adores you, whose heart is beating for you like a lighthouse guide to shipwrecked sailor safely from the sea. Abbiamo con noi Marco Wong, presidente di Associna, imprenditore cinese. Stavamo parlando dei pregiudizi verso le persone, verso il cibo. Quali sono i pregiudizi verso i cinesi quando è in Italia che le danno più fastidio? I pregiudizi danno un po' tutti quanti fastidio. Nel caso specifico dei cinesi c'è forse una differenza in Italia rispetto ad altri paesi nel mondo. In America, per esempio, i cinesi sono spesso noti per essere insomma, molto studiosi, ci sono tantissimi cinesi che hanno raggiunto posizioni, per esempio, di ministri nell'amministrazione Obama, per esempio. In Francia ci sono tantissimi cinesi letterati, qua in Italia purtroppo si ha un'immagine un po' troppo esemplificata e errata dei cinesi, per cui si associa sempre a un certo tipo di attività, appunto la ristorazione piuttosto che il commercio, e questo qui poi è un qualche cosa che può anche impedire una integrazione di una comunità straniera in Italia. E a proposito di questi pregiudizi, si parla spesso di cinesi quando si parla di contraffazione. Tra l'altro, i suoi nonni avevano un laboratorio di pelletteria a Bologna, ma già negli anni 60, che dava lavoro a molte persone, no? Sì, ma quello lì è stato quello con cui hanno cominciato e poi via via hanno fatto quel tipo di percorso, insomma, che ha caratterizzato altri cinesi, per cui hanno avuto un ristorante e così via. Però insomma penso che gli anni che passano poi danno opportunità insomma, magari alle seconde generazioni, a quelli dopo, di fare anche altri lavori e quindi di uscire da quella che è le attività che hanno caratterizzato la prima generazione. Sicuramente, d'altra parte, lei ha studiato al Politecnico, si è laureato, ha fatto tutt'altro e quindi è uscita dalle due nicchie ristorazione e pelletteria o tessile, nel quale di solito noi vediamo le famiglie cinesi. Però parlando di contraffazione, in effetti è un problema che esiste e non si può ignorare il fatto che alcuni laboratori cinesi un pochino abbiano acuito questo problema, no? In effetti la contraffazione è un problema, però è un problema addirittura anche in Cina stessa, per cui adesso che con la crescita economica della Cina si stanno affermando dei marchi che stanno avendo una valenza globale, succede che questi stessi marchi cinesi vengano copiati da altre aziende che possono essere pure loro cinesi, no? Quindi andrebbe un po' evitato l'accostamento, così contraffazione e una comunità, insomma. Una comunità. Perché ovviamente la comunità non risponde dell'individuo e viceversa. Diceva che in America, in effetti è così, i cinesi invece sono legati allo stereotipo dello studente studioso. Ci sono dei politici di origine cinese. In Italia lei vota? Sì, voto e per esempio mi sono interessato di politica e insomma qualche annetto fa mi sono pure candidato a una elezione amministrativa. E vedrebbe un ministro di origine cinese nel governo italiano di qualunque bandiera? Io penso che gli stranieri e i nuovi italiani andrebbero sempre di più coinvolti, perché poi sono spesso un ponte naturale verso altre nazioni e altri paesi, quindi sono in grado così di facilitare i rapporti con l'estero, per esempio, e possono apportare dei nuovi contributi, per cui se noi vediamo l'esperienza di paesi europei anche vicini a noi come la Francia, da Germania, eccetera, insomma ci sono appunto dei contributi importanti dati da cittadini. Quindi i tempi sono maturi anche per l'Italia, secondo lei? Forse un pochino meno maturi rispetto ad altri paesi, però tenuto conto che in altri paesi questo è già successo da tempo, ma perché no? Insomma, mi augurerei che nei prossimi governi ci sia anche un contributo di questo genere. Across the country, only 50,000 American school kids are studying Chinese. In China, by contrast, there are 200 million students learning English. The numbers are increasing. A decade ago, about 300 schools in the U.S. taught Chinese. Now it's close to 1,600, driven by interest in China's $6 trillion economy, now the second biggest in the world. At City Terrace, the Chinese immersion program is so popular, they have a waiting list. Learning Chinese as a second language will help their children to be able to find a better job later on. And then there are the hidden benefits. Why do you think your parents wanted you to learn Chinese? They like to go to Chinese restaurants. Lei ha una moglie cinese, però ha sentito all'inizio della nostra trasmissione quello spezzone tratto dal film Indovina chi viene a cena, in cui si propone la situazione di un'americana, in quel caso bianca, che si fidanza con un uomo di colore, ma può essere anche ovviamente una persona di un'altra nazionalità. E questa situazione, secondo lei, è superata in Italia, quella delle coppie miste, dei matrimoni misti? Talvolta c'è ancora un po' di incomprensione su questo proposito, per cui non so, i figli vivono quel stesso tipo così di curiosità o alle volte pregiudizio addirittura che per esempio ho vissuto io da piccolo, quindi probabilmente può ancora succedere oggi, nonostante siano passati quasi 50 anni. Sentiamo un altro spezzone dal film. Tu hai 30 anni più di quelli che ho io, papà. Tu ti consideri ancora un uomo di colore, mentre io mi considero un uomo. Allora, tu ti consideri un uomo di colore, io semplicemente un uomo. Marco Wong, ha mai detto una frase simile a suo padre? Tu ti consideri un cinese, io semplicemente un uomo? No, a mio padre no, però ho avuto modo così di dire qualche cosa di simile ad altre persone. Per chiudere, prima di riepilogare le ricette di oggi, qual è la ricetta italiana che le piace di più? Il piatto che le piace di più? Sono tantissime le cose che mi piacciono della cucina italiana, quello lì spesso dipende dal momento. E quello che lei sa cucinare meglio? La pizza, faccio la pizza insieme ai miei figli durante il weekend quando ho un po' più di tempo. Anatra laccata. Ingredienti: un'anatra, 2 cucchiai di vino cinese, 2 cucchiai di pepe in grani, un pezzo di zenzero fresco, un cipollotto, 2 peperoncini piccanti, 2 cucchiai di olio d'arachidi, 2 cucchiai di salsa di soia, 100 g di malto. Il primo segreto per una perfetta anatra laccata consiste nel chiudere tutti i pori della pelle lavando l'anatra con l'acqua bollente. In questo modo avrete la pelle sottile e croccante. Questo lavoro serve anche a sciogliere il grasso sotto pelle. Quindi, dopo aver eliminato ogni residuo di penne e piume, fate bollire una pentola di acqua salata, poi immergete l'anatra. Ripetete l'operazione almeno 3 volte. A questo punto legate l'anatra con uno spago e appendetela ad asciugare per almeno 4 ore in un posto fresco tra i 5 e i 10 gradi. Ricordate di lasciare una bacinella sotto l'anatra per raccogliere il liquido. Sbucciate lo zenzero. Tritate finemente il porro con lo zenzero e i peperoncini. Nel frattempo scaldate il forno a 200 gradi e mondate le verdure. In uno wok con poco olio fate rosolare velocemente lo zenzero con il porro o il cipollotto. Unite il pepe, il vino di riso e fatelo sfumare completamente. Per ultima aggiungete la salsa di soia e, se serve, un pochino di sale. Con questo composto condite l'anatra, cercando di distribuire il condimento in modo uniforme. Cercate di chiudere l'anatra con uno stecchino. Infornatela a 200 gradi per i primi 15 minuti. Per sapere il tempo esatto di cottura, pesate la vostra anatra. Cuocete per 30 minuti per ogni 450 grammi di peso. Ora fate sciogliere il malto in pochissima acqua calda. Questo è il segreto della laccatura. Ora pennellate ogni 15 minuti l'anatra con il malto per renderla croccante. Ora sapete perché l'anatra laccata è un piatto tanto ricercato e costoso. Ogni 15 minuti dovrete pennellare con il malto girandola ogni volta. Sarà pronta quando avrà preso un bel colore bruno dorato. Non spegnete ancora il forno. Ora dovete lasciare riposare almeno 15 minuti. Poi servite. La puntata di oggi termina qui. Ringrazio il nostro ospite Marco Wong, imprenditore e presidente di Associna. Buona serata e buona cena. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Ringrazio in regia Valeria Bernardi. Mi trovate anche su Twitter @valfurla e trovate le ricette sulla pagina del programma. Buon appetito a tutti e ricordate, in cucina è come nella vita, i gusti cambiano. You've got to give a little. That's the glory of love.